America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Il Dow Jones ha toccato quota 12.595 e il livello più alto dal pre-crisi del 2008, un aumento ieri dello 0,92%, quasi l'1%. Gli investitori dunque corrono, il toro continua ad essere alquanto scatenato. Perché? Ma in generale perché le aziende stanno andando benissimo, continuano a macinare profitti, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, per esempio con la Apple Computer, che ha, pensate, 60 miliardi di dollari in contanti. Ieri la Ford Motor Company ha aumentato i profitti per il trimestre del 22%. Dunque una ventata di ottimismo un po' dappertutto sul mercato, perché i buoni del tesoro hanno tenuto, non c'è stata la, diciamo, diminuzione che alcuni si aspettavano in attesa della conferenza stampa di oggi, conferenza stampa storica. È la prima volta che un presidente della Federal Reserve parlerà ai giornalisti dopo una riunione del Federal Open Market Committee, ma di questo parleremo dopo. L'unico elemento che posso darvi è che questa apertura da parte della Fed poteva suscitare in alcuni timori, perché si diceva forse Bernanke annuncerà delle misure che potrebbero scoraggiare il mercato, ma il mercato sembra essere piuttosto forte. Sull'altro versante abbiamo ancora gli elementi invece di preoccupazione per quelle deficienze strutturali di cui abbiamo parlato in puntate precedenti. L'argento, per esempio, sta sfiorando quota $50 all'oncia, e una cifra enorme, ma la corsa ai metalli preziosi continua. L'oro ha fatto la parte del leone, l'argento si dice è in proporzione indietro rispetto ai guadagni che ha fatto l'oro, e quindi si cerca di riconquistare il terreno perduto. Il dollaro resta debole, un dollaro che viaggia con una banda di oscillazione fra 1,45 e 1,46, qualcuno dice 1,47, ieri a un certo punto ha toccato 1,46,40, però l'unica ragione per la quale il dollaro, si dice, non è ancora arrivato a quota 1,50 è per la crisi europea. Nel momento in cui abbiamo ancora queste difficoltà sulla Grecia, con i tassi di interesse che continuano a salire per il rischio greco, beh, ecco, questo fa da freno ovviamente su un'ascesa ancora più forte dell'euro nei confronti del dollaro. Però tutti dicono che è soltanto questione di tempo, molto probabilmente arriveremo di nuovo a quelli che sono stati i massimi veri di 2 anni e mezzo fa, da cui non siamo peraltro molto lontano, cioè quota 1,56 1,56 e mezzo. Currently the cost pressures from higher commodity prices are also being offset by the stability in unit labor costs. Thus the most likely outcome is that the recent rise in commodity prices. Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve, il governatore della Glasnost, come l'ha battezzato l'altro giorno il Wall Street Journal, il governatore dell'apertura, il governatore della libertà. Perché? Beh, perché questo personaggio che ha studiato a fondo la Grande Depressione quando lavorava all'università e che si è poi trovato a dover gestire una situazione simile, quindi a dover fare un passaggio non necessariamente facile dalla teoria alla realtà, beh, ha aperto una pagina della storia per la Federal Reserve americana. Parlerà ai giornalisti in una conferenza stampa fra poche ore. Oggi è la giornata del Federal Open Market Committee della Federal Reserve. Il Federal Open Market Committee, lo ricordo per gli ascoltatori che non lo sapessero, è il comitato monetario, avviene ogni 6 settimane, è un comitato molto importante perché stabilisce le linee di politica monetaria e dunque l'andamento dei tassi di interesse. Non ci si aspettano novità dall'incontro di oggi, però ci stiamo avvicinando a una scadenza importante, la scadenza di giugno, quando il famoso QE2, cioè il quantitative easing numero 2, 600 miliardi di dollari buttati dalla Federal Reserve sul mercato per sostenere il mercato obbligazionario americano, ecco, questa manovra giungerà al termine. La domanda di fondo è: sarà rinnovata o no? Vi faccio 2 pronostici. Il primo, la manovra non sarà rinnovata e quindi il mercato dovrà, soprattutto quello obbligazionario, cominciare ad imparare a muoversi per conto suo. La Fed ha una serie di strumenti per rendere più morbido questo passaggio in modo che non ci sia una caduta improvvisa di questa spinta di liquidità che viene dalla banca centrale, però siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine di un periodo storico dal punto di vista economico piuttosto importante, e cioè quello dell'accomodamento a oltranza per evitare che il paese e internazionalmente le economie si piegassero sotto il peso della crisi finanziaria e poi della crisi economica. Secondo pronostico, la Federal Reserve deciderà un aumento dei tassi di interesse a gennaio e dunque l'inizio di un'era in cui i tassi di interesse andranno a rialzo. Una manovra, questa devo dire, molto importante, perché anche se i dati non ce lo dicono, c'è una grossa percezione di inflazione in arrivo. Lo vediamo dai prezzi delle materie prime, per esempio quello cui vi accennavo poco fa, sull'argento. Dunque questi sono i due elementi chiave che riguardano il futuro della Fed. Ci si domanda quanto Bernanke sarà trasparente, quanto risponderà alle domande dei giornalisti. La Fed ha voluto allinearsi a strategie di trasparenza simili da parte per esempio della Banca Centrale Britannica, da parte della stessa Banca Centrale Europea, ma Bernanke è un personaggio molto guardingo, molto prudente, dunque sarà interessante capire come reagirà davanti alle domande dei giornalisti. Vi ripeto, seguiremo questa cosa probabilmente anche domani, la seguiremo oggi nel corso della giornata nelle cronache di Radio 24. È davvero una svolta storica per la comunicazione della Federal Reserve. When I was born, it was actually in the state of New York both a crime and a mental illness to be gay. La voce che avete ascoltato è di Andrew Solomon, uno dei personaggi più straordinari della cultura americana, della vita newyorkese. Andrew Solomon è uno scrittore, ha scritto un libro sulla depressione che ha vinto il National Book Award, ma come sentite dalle parole che dice e descrive la sua vita di gay, dice: quando io ero nato era un crimine essere gay, oggi non è più così, dice: sono sposato, ho un marito e abbiamo dei figli, abbiamo una famiglia, la vita è cambiata completamente. Andrew Solomon è diventato un personaggio molto famoso non soltanto per i suoi libri, ma proprio per questa sua crociata per i diritti dei gay. Perché vi racconto di questa storia? Perché il padre di Andrew Solomon, Howard Solomon, all'improvviso è balzato al centro delle cronache finanziarie. È un uomo di 83 anni, è l'amministratore delegato di una delle più importanti compagnie farmaceutiche americane, la Forest Laboratories. Ebbene, il Dipartimento per la Sanità lo ha messo nel mirino e ha fatto una minaccia molto semplice ma anche molto strana. La società era stata accusata di aver compiuto delle irregolarità mettendo sul mercato un prodotto antidepressione che Solomon aveva sviluppato proprio dopo che il figlio aveva scritto questo libro, e per un disguido avevano messo sul mercato questo prodotto prima che ci fosse un'autorizzazione della Federal Drug Administration, da parte dunque delle autorità di regolamentazione americane. Ci fu una multa da 300 milioni di dollari, tutto sembrava finito lì, quando è giunto pochi giorni fa questo ordine del Dipartimento della Sanità: o Howard Solomon se ne sarebbe andato e avrebbe dato le dimissioni, oppure la loro società non avrebbe avuto più contratti con il governo, contratti con il Medicaid, l'agenzia che aiuta gli anziani per le loro spese mediche e che compra direttamente i medicinali. Ecco, questa cosa è stata vissuta come una persecuzione delle aziende da parte del governo americano. Si è aperto un capitolo estremamente importante. La storia mi ha colpito perché c'è questo passaggio da questo figlio che si è sentito emancipato in quella che lui aveva vissuto come una persecuzione dei gay e che poi ha superato pubblicamente, e devo dire in modo straordinario, per arrivare adesso a questa persecuzione del padre. Le reazioni della comunità degli affari sono state molto dure.